si spiegano e si inquadrano i tagli previsti dalla manovra economica. Eppure sembra innegabile che dietro al taglio, ai fondi, allo spettacolo e alla cultura ci sia un'idea. Cinema, teatro, musica, in fondo, sono considerati settori non necessari, insomma, se ne può fare a meno. Ma è davvero così? Daniela Binello, sentiamola al seguito della protesta nel mondo dello spettacolo. Il taglio per un musicista dell'Orchestra di Santa Cecilia di Roma sarà del 25% sullo stipendio. Un violoncellista come Benny Penazzi, che ha 47 anni e che da quando ne aveva 11 ha cominciato a studiare musica, significa che con 36 anni di professionalità nella musica guadagnerà un bel po' in meno di 2.400 euro al mese. Ma sono anche altre le motivazioni di chi svolge un lavoro in un'orchestra. Perché è importante la mia funzione. Io sono un portatore sano di cultura, ma di cultura di quella con la C maiuscola, non delle barzellette. Perché per esercitarla questa cultura vuol dire avere tanta energia ed impiegarla in modo molto serio, pensando di fare le cose per le persone, per la società. Per cui io ho una funzione grossa, forte, una grande responsabilità. Sento questo nelle scuole, veramente nei posti dove c'è un'occasione. Io vado a suonare la mia suite di Bach, mi confronto con la gente che non ha mai visto uno strumento, un violoncello, eccetera, che non sa neanche che cos'è. C'è la crisi, siamo disposti anche a qualche sacrificio, non alle amputazioni. Così scherza la grande Franca Valeri, ma Alessandro Haber, per salvare dai tagli il settore teatrale, azzarda un'ipotesi provocatoria. Io credo che per salvare il teatro in generale, forse, dico questo per assurdo, bisogna fare una cosa eclatante, forse bruciarne uno. Allora forse, chi lo sa. Con gli estintori a portata di mano, intanto al Teatro Valle di Roma, attori e autori si sono incontrati per testimoniare la solidarietà all'ETI. L'ente teatrale italiano, che gestisce teatri come il Valle, il Teatro della Pergola di Firenze e il Duse di Bologna, è nell'elenco degli organismi da cancellare a giudizio del nostro governo. Il taglio dell'ETI in una manovra complessiva da 25 miliardi circa vale 164 mila euro. Di vero risparmio si tratterà? Marco Bagliani. Resta il fatto che stanno tagliando di brutto un ente culturale che in questi anni io credo ha lavorato molto, soprattutto per ciò che riguarda le giovani compagnie e le giovani formazioni. Molti degli attori, me compreso, ma tanti altri, io ormai sono insomma molto vecchio, diciamo, ma quelli più giovani che sono venuti fuori nel mondo teatrale, che sono emersi anche grazie ai progetti ETI. Anche per Pamela Villoresi l'ETI non è un ente inutile. Io una professionalità così e un'efficienza così l'ho trovata raramente nel mondo, quindi sono competenze che non si possono perdere. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Insomma, i tagli potrebbero colpire quelle indennità barzelletta che non nobilitano la cultura, come l'indennità pioggia per l'Arena di Verona, l'indennità per l'uso delle lingue straniere a Caracalla o quella che riceve l'ultimo corista perché deve lasciare il palco dopo gli altri. E ancora l'indennità di corazza per chi deve portarne una in scena. Però la mannaia sulla cultura rischia di creare dei disastri che Bagliani paragona a quelli ambientali. Allo stesso modo di quello che sta accadendo al nostro paese in termini di paesaggio, sta accadendo anche in termini di cultura. Cementificare vuol dire togliere voce, impedire la bellezza di esprimersi, e forse ha a che fare anche con tutto l'imbarbarimento di questa società in termini di linguaggio, in termini di valori, in termini di modi di intervenire, di parlare, di relazionarsi. Dulcis in fundo, la TV, il mezzo più largamente diffuso per portare la cultura nelle case. Ma secondo Linda Brunetta, sceneggiatrice di tantissimi programmi televisivi, gli autori sono stati depotenziati in un ruolo di più modesti arrangiatori per l'Italia di format stranieri. Non c'è nessuno spazio alla sperimentazione, nessuno spazio alla novità, e gran parte del palinsesto è riempito da format stranieri che vengono adattati in Italia, ma anche per la fiction, non solo per l'intrattenimento, non è che c'è solo l'Isola dei Famosi. L'anno scorso 5 fiction comprate in Spagna o altri paesi e riadattate in Italia, che è veramente una mortificazione per gli autori italiani. Per Carlo Verdone, in un famoso sketch in cui appare stravaccato in vestaglia, la cultura è... Su Giacomo veramente è stata la pugnalata, mi è crollato un mito della giovinezza. Dice, non stai al passo con i tempi, sei antiprogressista. No, sono realista. Sono rimasto male, con l'amarezza in bocca. Tant'è vero, questo professore spiega, dice, tant'è vero, dice che la poesia a Silvia in realtà era dedicata a Silvio. Dice che poi gli amici, i parenti, dice, quando è morto, dice, hanno dovuto cambiare a Silvia per non far capire che questo era... Ha capito? Cioè questo, signori miei, questo che cosa ti dimostra? Ti dimostra una cosa semplicissima, che purtroppo la cultura spinge alla bisessualità. Non c'è niente da fare. Ah, sì. È tutto per questa puntata di Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci le vostre storie o commentare i servizi che avete sentito in onda. controluce@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, Radio 24. Italia in Controluce, buona giornata, noi ci sentiamo lunedì prossimo.